E mi avvicino qui in mezzo alla piazzetta, qui tra via Teco e piazzetta che non so bene come si chiami perché non c'è scritto, ma lo chiedo. Buongiorno, buongiorno, scusate, vi posso interrompere, presentare, siamo in radio in diretta e questo. Buongiorno, Buongiorno, lei? buongiorno. Io mi chiamo Aligi Michelis e se devo dire, Ma potrebbe anche bastare. sono il presidente dell'Associazione Culturale Olmeta. Piacere, piacere. Ho avuto il gran piacere di leggere il vostro libro sul Meta, quello è un bel volume. Sì, molto, molto, molto interessante. Purtroppo non siamo più riusciti a portarlo avanti. Eh beh, ma come rivista, però Sì. anche se fosse un numero unico è Sono estremamente buttati due numeri. interessante. Molto, molto interessante. Ben impaginato, molto, Oh, molto. la ringrazio, ma è una gran fatica che ho dovuto fare Lo so, queste sono però sono le fatiche che restano, quindi vanno bene. Mi è rimasta una grossa curiosità rispetto al libro, che dico per i nostri radioascoltatori, poi ne riparleremo. È un libro che abbiamo usato per avere un po' di informazioni vostre, sentire la vostra voce prima di venirvi a trovare. E mi ha curiosito innanzitutto il dialetto olmeasco. L'ulmiosco. L'ulmiosco, L'ulmiosco. vede che non posso arrivarci. Non è che avrebbe, che ne so, qualche poesia, qualche cosa per darci un esempio, giusto per darci un esempio. Lei lo parla. Sì, anzi, se ci incontriamo io e il sindaco non riusciamo a parlare in italiano anche se fossimo loro. Beh, il sindaco lo abbiamo quasi cacciato, mentre invece adesso tornerà e quindi vi lasceremo parlare in ulmeosco. Volentieri. Ma questa è una Sì. bellezza di avere delle lingue proprie, è veramente bello. Ci può raccontare qualche cosa? Ma raccontare in dialetto o no? Possibilmente, possibilmente. Noi in radio usiamo tutte le lingue, quindi. Sì, certamente. Adesso così, mettermi a bitome a parlo non mi se c'ho mica qualcosa, mi rispondo. Immagino, immagino. No, la cosa che mi interessava, per esempio, ho scoperto leggendovi che non è propriamente un dialetto né ligure né piemontese, ma un dialetto tipico. È un dialetto, diciamo, misto. Certamente il sindaco può essere più addentro diciamo, alla storia dialetto. Comunque, certamente la base è un albenganese interno, della parte interna della Liguria, come base. Signor Poi sindaco, non però, scappi, che io sono visto qui. che No, lei è qui. perché Polmo Dulmea, cioè Dulmea non ho problema a Ah, farlo. Dulmea è un problema perché più non capisce niente. Ma io ci provo a Capì ma capire. Magnoci che sono matizzi perché manco qualche stanno lì da fe, i paesi proprio attaccò a Gnocchi, non capisci. Non capisci. Non capisci. Ho capito, perché è un dialetto proprio, no? C'ha un'origine strana. Allora, l'origine, gli studiosi del dialetto lo derivano dall'ingauno interno, cioè dall'albenganese dell'entroterra, quindi sostanzialmente qui erano gli antichi Liguri e la matrice è il Ligure. Poi si sono inseriti dal piemontese al francese a tutto quello che c'era, perché comunque questa strada qui, la strada del Colle di Nava, è il Molto passo più più basso basso. partendo dal nord delle Alpi, no? Dell'arco alpino, che poi è 900 metri, mentre già il Colle di Tenda, che è un po' più a Certo. nord, era già 1400 con la 1400. galleria, prima era 2000, e quindi veniva usato tantissimo. Quindi qui passavano piemontesi, lombardi che andavano verso la Francia e così via, quindi tutti hanno lasciato un pezzetto. In più ci sono alcune parole che hanno un'etimologia piuttosto rara e non legata alle zone vicine, ad esempio non sono i bicchiere. Bicchiere in Piemonte si dice gottu, si dice bicerini, in Liguria gottu, un gottu de vin, cosa così. Da noi si dice zona. Zona, bevo una zona di vin, bevo un bicchiere di vino. E dicono che c'è un qualcosa di simile su alcune zone dove i saraceni, gli arabi hanno avuto qualche tipo di influenza. Quindi pare che alcune di queste parole, che hanno un'etimologia diversa sia dal piemontese che dal ligure, siano proprio derivate forse da qualche presenza saracena che è stata marginale, perché poi la presenza saracena in queste zone è la seconda metà del Novecento, ma Novecento, non 1900, del Novecento, ecco, fra il Novecento e l'anno 1000, perché prima dell'anno 1000 in qualche modo li hanno fatti fuori, li hanno fatti sparire, però abbiamo questo dialetto. Sono diventati cristiani, insomma, non è che necessariamente li abbiano ammazzati tutti. Qualcuno l'aveva fatto fuori, qualcuno si è inserito. Le belle ragazze le abbiamo fatte colmeasche, insomma. Ma so che c'è una famosa grotta qui vicino che si chiama la Grotta del Saraceno. Dei Saraceni. Sì, anche lì non si sa bene, è una grotta, la particolarità di questa grotta murata. È che è una grotta murata, nel senso che l'ingresso di questa grotta, che si trova su un versante roccioso con un accesso non così semplice, è stato in gran parte murato, quindi vuol dire che lì qualcuno si era chiuso lì e si difendeva anche da eventuali attacchi, per cui si fa risalire questa ai Saraceni. Poi dicono che lì dentro c'è passato Byron, ci sono passati Adelaide Ramo e Adelasia, poi questo non si sa, è tutta roba della leggenda. La leggenda di Adelaide Ramo e Adelasia ci torneremo, perché c'è anche la curiosa forma di cuore, il fatto che la città di Ormea qualcuno ha scoperto che è l'anagramma di amore, che però non si dice così in ulmeasco. Come si dice in ulmeasco? Ulmea. Ma sì, no. Ma la parola amore in dialetto com'è? Non si dice, non esiste, non esiste. No, perché throw you bang, throw you bang. Parola amore non esiste. È pericoloso, sì, è una cosa pericolosa da dire. Infatti anche in romano, insomma, non si dice sì, ti voglio bene, perché amore vuol dire che ti sposa, fai figli, insomma, è un'altra roba. Abbiamo qui anche non esiste la parola moglie in romano. Non c'è, no. No. Fanna. Che è uguale a donna, donna si dice sia a salire in Afanna, cioè lei è una donna, o a salire a me Fanna, che vuol dire mia moglie, ma è la stessa cosa. E la dice lunga sul possesso. Sull'idea di possesso. La mia donna. Beh, questi sono quei retaggi che penso che non solo in Italia. Andiamo a vedere, non vale la stessa cosa per il marito. Anche il marito non esiste. No, il meomus. Però somu. Ma no, il meomus dire, a pulire il meomus. Quindi secondo me c'era una certa parità. Scusate, adesso in onore dei tempi radiofonici, siccome passa una signora, io vorrei dare la parola a Nava.